E che? Dice Mister Leopold con le mani incrociate, ansioso di conoscere il tenore delle cose. Le macelleranno tutte. Attesto in fede mia ad averle viste giusto questa mane dirette alle navi di Liverpool, dice. Mi rifiuto di crederla cosa così grave, dice. Egli aveva in vero esperienza di bestie di razze simiglianti, e di torelli, tosoni bisunti e montoni di lana fina, essendo stato anni prima attuario di Mr. Joseph Cuff, un degno sensale che faceva il suo commercio di bestiame e di vendite di pascoli nei pressi dell'azienda di Mr. Gavin Law in Prussia Street. Non sono d'accordo con voi su questo punto, dice. È più probabilmente il rantolo o la glossite bovina. Mr. Stephen, un tantino alterato, ma con molta grazia, gli disse che così non stavano le cose e che gli erano giunti dispacci dal gran tiracode dell'imperatore, che lo ringraziava dell'ospitalità e gli mandava il dottor Pestilenza Bovina, il più rinomato chiappabovi di tutta la Moscovia, con un bolo o due di medicine, onde prendere il toro per le corna. Su via, dice Mr. Vincent, carta in tavola. Si ritroverà sulle corna di un dilemma se si impiccia di un toro irlandese, dice. Irlandese di nome e irlandese di fatto, dice Mr. Stephen, nel far girare il calice. Un toro irlandese in un negozio di chincaglierie inglesi. Ben m'appongo, dice Mr. Dixon. È quel toro medesimo che fu mandato nella nostra isola dal fattore Nicholas, il più balioso allevatore di bestiame che sia vi mai stato, con un anello di smeraldo al naso. Sei nel giusto, dice Mr. Vincent attraverso alla tavola, e hai tagliato la testa al toro per giunta, dice. E un toro più grasso e più grosso di quello, dice, non ha mai smerdato il trifoglio. Aveva abbondanza di corna. Un manto dorato e un soave alito fumoso che gli usciva dalle nari. Sì, che le donne della nostra isola, abbandonate pastette e mattarelli, gli andavano dietro decorando la sua taurinità di ghirlandette di margheritine. E che importa, dice Mr. Dixon, poiché prima che ci venisse il fattore Nicholas, che era un eunuco, lo fece castrare compiutamente da un collegio di dottori che non erano meglio forniti di lui. E adesso via, gli dice, e fa tutto ciò che Lord Henry, mio cugino germano, ti dice, e abbi la benedizione di un fattore, al che gli batté sonorissimamente il posteriore. Ma battitura e benedizione gli furono di buon auspicio, dice Mr. Vincent, perché per ricompensarlo gli insegnò un trucco che valeva ne mille, cosicché non c'è a tutt'oggi verginella, sposa, abbadessa o vedova che non affermi di preferire in qualsiasi momento del mese di sussurrargli all'orecchio nell'oscurità di una stalla o di farsi leccare la nuca dalla sua santa e lunga lingua, anziché giacersi col più bel garzone stupratore dei quattro campi dell'Irlanda. Un altro allora volle dire la sua e lo abbigliarono, dice, con una camicia di pizzo e un gonnellino, con strascico e cintura e polsini di pizzo alle caviglie, e gli tosarono il ciuffetto e lo spalmarono dappertutto con olio di spermaceti e costruirono stalle apposta per lui a ogni cantone, con mangiatoie d'oro ripiene delle migliori biade sul mercato, sicché egli potesse sonnecchiarvi e scacazzarvi a sua posta. A quel tempo il padre dei fedeli, che così lo chiamavano, era divenuto così pesante che appena poteva muoversi per andare al pascolo. Onde porvi rimedio, le nostre astute dame e damigelle gli portavano il foraggio nei grembiuli, e non prima il suo ventre era pieno che egli si ergeva sulle parti deretane, onde mostrare alle loro signorie un grande mistero, e ruggiva e mugghiava più non posso in lingua taurina, e tutte erano dietro a lui. È ben vero, dice un altro. Ed era sì viziato che non soffriva che crescesse nel paese se non erba verde per suo uso e consumo, poiché era il solo colore che gli andasse a genio. E su una collina al centro dell'isola si vedeva un cartello con su scritto: Per ordine di Lord Harry, viva il verde che vedesi ogni dove. E poi, dice Mr. Dixon, se mai fiutava un ladro di bestiame a Roscommon o nelle lande di Connemara, o un mezzadro di Sligo che seminasse non più di un pizzico di senape o di un'oncia di semi di ravizzone, via, si partiva di gran furia per la campagna, sradicando con le corna tutto ciò che vi era piantato e tutto per ordine di Lord Harry. Non correva buon sangue tra loro a tutta prima, dice Mr. Vincent. E Lord Harry mandò al diavolo il fattore Nicholas e gli dette del vecchio puttaniere con 7 troie in casa e gli guasterò io le uova nel paniere, dice. Gli farò passare l'inferno a quell'animale, dice, con l'aiuto di quel buon erbo che m'ha lasciato mio padre. Ma una sera, dice Mr. Dixon, mentre Lord Harry si stava lisciando il pelo regale per il pranzo, dopo aver vinto una gara nautica, aveva per sé pale a mo' di remi, ma la regola prima della corsa era che gli altri dovessero remare con dei forconi. Scoprinse una mirabile simiglianza con un toro e, tirando fuori un libricciolo sbertucciato da lui tenuto in dispensa, ivi trovò le prove dell'esser egli discendente di mano manca del famoso toro campione dei Romani, Bos Bovum, che significa in buon latinorum padrone del vapore. Dopodiché, dice Mr. Vincent, Lord Harry mise la testa in un truogolo da vacche, alla presenza dei cortigiani tutti, e traendola fuori, disse all'intorno il suo nuovo nome. Indi, grondando acqua da ogni parte, entrò in un vecchio camicione e in una gonna, che erano appartenute a sua nonna, e acquistò una grammatica della lingua taurina al fine di studiarla. Ma non poté mai ritenerne parola, eccettuato il pronome personale di prima persona, che ricopiò a lettere cubitali e mandò a memoria, e ogni qualvolta usciva a passeggiare si riempiva le tasche di gesso, onde scriverlo ovunque se lo pungesse vaghezza, fosse il fianco d'una roccia, o la tavola di una sala da tè, o una balla di cotone, o un sughero da pescatore. In breve, lui e il toro d'Irlanda divennero presto intrinseci come culo e camicia. In vero, dice Mr. Stephen, andò poi a finire che gli uomini dell'isola, vedendo che non v'era altro rimedio, poiché le donne ingrate erano tutte dello stesso avviso, costruirono una zattera di fortuna. Si imbarcarono con le loro masserizie, alzarono gli alberi, issarono i pennoni, si portarono dalla parte ove soffiava il vento, misero in panna, dispiegarono 3 veli al vento, misero la prua tra vento e marea, levarono l'ancora, misero la barca a babordo, issarono la bandiera col teschio, lanciarono 3 volte 3 urrà, mollarono l'orza, presero il mare sul navicello e via a riscoprire l'America. Fu questa l'occasione in cui, dice Mr. Vincent, fu composta da un nostromo quella sbrigliata canzone marinara che suona: Papa Pietro non è che un pisceletto, ma un uomo è un uomo, nonostante tutto. Il nostro degno conoscente, Mr. Malachy Mulligan, apparve ora sulla porta, mentre gli studenti terminavano il loro apologo, accompagnato da un amico in cui si era nuovamente imbattuto, un giovane gentiluomo a nome Alec Bannon, che si trovava da non molto in città, nell'intento di comperare un brevetto d'alfiere o di cornetta nella milizia territoriale e arruolarsi per le campagne. Piacque a Mr. Mulligan di dare la sua approvazione alla cosa, tanto più in quanto ciò collimava con un progetto da lui formulato per la cura dello stesso male di cui prima era si tenuto discorso. Per cui egli porse in giro alla brigata una serie di cartoncini che aveva fatto stampare quel giorno da Mr. Quinnell e portavano una leggenda impressa in bel corsivo: Mr. Malachy Mulligan, fertilizzatore e incubatore, Isola Lambay. Il suo progetto, come gli seguì spiegando, era di ritrarsi dalla cerchia di vani piaceri, quali formano la precipua occupazione di Ser Bellimbusto Pappagalli e Ser Pappamolla quid nunc in città, e dedicarsi al più nobile compito per cui il nostro organismo corporale sia stato conformato. Orbene, sentiamo dunque, mio buon amico, disse Mr. Dixon. Già non nutro dubbi che non sappia divagheggiar femmine. Su via, sedetevi ambedue. Star seduti costa quanto star ritti. Mr. Mulligan volle gradire l'invito e, diffondendosi sul suo disegno, disse ai suoi ascoltatori d'essere entrato in questo pensiero per aver considerato le cause della sterilità. Vuoi le inibitorie? Vuoi le proibitorie, sia che l'inibizione a sua volta fosse dovuta a dissapori coniugali, ovvero a parsimonia di bilancio, come pure sia che la proibizione procedesse da difetti congeniti o da proclività acquisite. Profondamente lo addolorava, disse, il vedere il talamo nuziale defraudato dei suoi più cari pegni, e altresì il riflettere a tante gradevoli donne fornite di ricche doti, preda designata dei più turpi bonzi, che nascondono la loro face sotto il moggio in un chiostro alieno, o perdono il fiore della loro femminilità nell'amplesso di qualche rude villico, allorché ben potrebbero moltiplicare gli aditi della felicità, sacrificando l'inestimabile gioiello del loro sesso quando 100 gentili garzoni offrono le loro carezze. Questo, gli assicurò, era ciò che gli faceva piangere il cuore. Onde correggere questo inconveniente, che egli concludeva esser dovuto a una soppressione di latente calore, dopo essersi consultato con alcuni consiglieri di vaglia e aver indagato la questione, erasi risolto di rilevare a contratto perpetuo il feudo dell'isola Lambay dal suo legittimo proprietario, Lord Talbot di Malahide, un gentiluomo conservatore di buon nome che godeva dei favori del partito al potere. Egli proponeva di stabilire in quel loco una fattoria nazionale di fertilizzazione, da chiamarsi Omphalos, con un obelisco scolpito ed eretto alla maniera degli Egizi, e di offrire i suoi debiti servigi di uomo franco per la fecondazione di ogni femmina di qualsivoglia qualità o stato, che a lui fosse per rivolgersi col desiderio di adempiere la funzione del suo naturale. Il denaro non era l'oggetto dell'intrapresa, egli disse, né egli avrebbe accettato moneta per le sue fatiche. L'infima fante, non meno della facoltosa signora del bel mondo, se accadesse che le loro complessioni e temperamenti risultassero convincenti caldeggiatori della loro causa, avrebbero trovato in lui il loro uomo. Quanto al suo nutrimento, palesò il proposito di nutrirsi colà esclusivamente di saporosi tubercoli di pesce e di coniglietti, essendo la carne dei suddetti prolifici roditori vivamente raccomandata all'uopo, vuoi cotta, vuoi bollita con una punta di noce moscata e un grano o due di pepe di Cayenna. Dopo questo melia da lui porta con grande calore asseverativo, Mr. Mulligan in un baleno tolse dal cappello un fazzoletto col quale l'aveva tenuto riparato. Ambedue, a quel che appariva, erano stati sorpresi dalla pioggia, e nonostante avessero studiato il passo, l'acqua li aveva colti, come ben vedevasi dal calzone di Mr. Mulligan, di un rozzo panno grigio che adesso teneva del multicolore. Frattanto, il suo progetto era stato assai favorevolmente accolto dall'uditorio e si erano avuti i più vivi suffragi di tutti, per quanto Mr. Dixon di Santa Maria eccepisse, chiedendo con aria pedantesca se egli non avesse anche in animo di portar vasi a Samo. Mr. Mulligan, comunque, rese omaggio ai dotti della compagnia con una felice citazione dei classici, la quale, come la serbava la sua memoria, parvegli solido e gustoso sostegno al suo argomentare. Talis ac tanta depravatio, huius seculi, o quirites, Ut matres familiarum nostre lascivas, cuius libet, semiviri libici titillationes, testibus ponderosis, atque excelsis erectionibus centurionum Romanorum magnopere anteponunt. Mentre, per quelli di più grossa pasta, egli ribadì il suo argomento con analogie tratte dal regno animale, più acconcia al loro palato, il cervo e la cerbiatta, nella radura del bosco, l'anatra maschio e la femmina nel cortile.